Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Government is this huge sector where technology has just not really penetrated yet. Un'altra stagione di spunti di vista. Innanzitutto, benvenuti da Irene Zerbini. Stiamo per concentrarci su ciò che funziona. Per una volta, ciò che funziona nel mondo potrebbe circolare. Così come ci scambiamo le merci, potremmo scambiarci delle idee, e non solo e non tanto per il piacere che questo genera, ma perché in termini economici potrebbe questa buona pratica generare e liberare davvero tante risorse che poi si potrebbero reimpiegare in tanti servizi essenziali e che tanto impatto hanno sulla qualità della vita. Sul Financial Times c'è un articolo in cui si dice che una website londinese ha ottenuto 70.000 sterline dal servizio civile inglese, che intende imparare da questo sito, ma invece che lasciare che a imparare siano solo loro, lo possiamo fare anche noi. Il sito è apolitical.co, non .com ma .co, e mette in pratica in contatto i dipendenti pubblici di 60 paesi fino a questo punto, ma potrebbero essere molti di più. Per cui ci si potrebbero scambiare le pratiche, ciò che funziona nella scuola, nella sanità, nella gestione dei rifiuti, e fare in modo che i risultati ottimi di qualcuno in un angolo del mondo diventino i risultati di tutti nella pubblica amministrazione. Scambiarsi idee sui sistemi, questo avrebbe un impatto enorme. L'ha capito questa donna, che oggi è nostra ospite, si chiama Robin Scott, e insieme alla cofondatrice, un'altra donna, Lisa Mary Witter, ha cercato di mettere fine a quest'ingiustizia della mancanza di circolazione delle buone idee. Sentiamola. L'amministrazione pubblica fa parte di un'enorme sezione in cui non è compenetrato bene l'uso della tecnologia. La mia altra motivazione è stata ispirata da un progetto su cui sto lavorando da molto tempo. Un'organizzazione no profit in Sudafrica. Insegniamo a ex detenuti e prigionieri il computer programming. Formiamo soprattutto giovani e poveri nel Sudafrica, e ho scoperto, lavorando con il sistema carcerario, quanto sia cruciale il settore amministrativo. Nessun settore privato o civile può lavorare senza delle persone valide nell'amministrazione. Mi sono resa conto di come tutti i problemi siano connessi. Lavori in una prigione e ti tocca affrontare diversi temi come l'alloggio delle madri, l'istruzione, il tentativo di spezzare il ciclo della violenza. Appare chiaro dunque che la qualità della vita della nostra giornata dipende da loro, da quelli che lavorano nella pubblica amministrazione, più che dai politici eletti. E quindi Robin Scott ci ha spiegato perché ha voluto definire questa operazione apolitical. Sentiamo. Apolitical può sembrare un nome ironico, ma parte dal presupposto che tutti tendiamo ad avere elementi che ci mettono d'accordo, più che soffermarci sugli aspetti di disaccordo. In realtà vogliamo tutte le stesse cose: sanità, istruzione, giustizia. Ma quello che sentiamo trattare nella narrazione pubblica sono soltanto le questioni politicizzate dai politici, mentre non sentiamo parlare della maggioranza delle innovazioni e soluzioni su cui potremmo essere d'accordo. Io ho maturato molto rispetto nei confronti di chi lavora nella pubblica amministrazione. Alcuni, è vero, non dovrebbero occupare certe posizioni, ma conosco anche tanti che devono lavorare con restrizioni così difficili e sistemi così complessi che penso che dovremmo fargliela pesare di meno. Vi immaginate che ricchezza sarebbe poter anche reimportare quei 140.000 italiani che ogni anno se ne vanno e metterle nelle condizioni di operare negli ospedali, nelle scuole, nelle aziende, altro che G20. Solo che non si è fatto e non si farà mai. Mettere proprio a servizio di tutti quello che hanno appreso. Ma per parlare proprio dell'Italia torniamo tra poco con Robin Scott. Intanto le abbiamo chiesto quali sono gli ostacoli che ha incontrato nel corso, nella realizzazione di questa operazione che è partita, lo ricordiamo, nel 2015. Una delle cose che abbiamo ritenuto importante per superare l'ostacolo dei racconti negativi è stato il ricordare alle persone il campo d'azione dell'ente pubblico. I paesi dell'OCSE spendono in media il 40% del PIL nella pubblica amministrazione. La totalità globale ammonta all'incirca 30.000 miliardi all'anno. Però se si prendesse solo l'1% di quella spesa e migliorassimo la sua efficienza del 50%, concentrandoci di più su ciò che funziona e meno su quello che non funziona, si libererebbero 150 miliardi di dollari all'anno in risparmi. È una grandissima opportunità. Le soluzioni sono sempre più condivisibili. Per risolvere i problemi globali, dai rifugiati all'ineguaglianza, dobbiamo guardare oltre i confini e le soluzioni verranno da nuovi modelli di operatività, nuove tecnologie o nuove forme di finanziamento e ancora una volta le soluzioni sono condivisibili. E sottolineo che le città si amano di più che i paesi. Per esempio, New York è più simile a Delhi che gli Stati Uniti e all'India. E una delle condizioni di apolitical.co è, intanto andate, cioè sul computer, se lo accendete ci sono tantissime idee, tantissimi spunti. Se lavorate nella pubblica amministrazione potrebbero ispirare anche voi, che ogni tanto dimostrate un pochino di stanchezza, no? Di fronte ai cittadini. Ebbene, queste idee sono... arrivano non solo dai paesi più avanzati, non solo dai paesi più ricchi, ma è una delle condizioni che il 40% arrivi dai paesi in via di sviluppo. Abbiamo chiesto a Robin Scott proprio quali sono quei sistemi, quei meccanismi adottati in qualche angolo del pianeta che hanno funzionato e che le ha trovato molto rilevanti. Una delle politiche che abbiamo portato avanti di recente, che mi era piaciuta, era una di tipo ambientale e di creazione di posti di lavoro in Svezia. Parte dal presupposto che buttiamo troppe cose, che siano vestiti o elettrodomestici. In questo caso hanno ridotto l'IVA sugli oggetti come le biciclette e i vestiti e hanno permesso al consumatore di detrarre una parte della spesa per la riparazione degli elettrodomestici, invece che incentivare a buttarle via. L'effetto è stato che i consumatori hanno risparmiato. E questo ha funzionato da incentivo per i lavori di riparazione che fanno parte di un mercato del lavoro meno qualificato. È anche stato fatto un video su questo che ha avuto 18 milioni di click. È evidente quindi che c'è un grandissimo appetito per questo tipo di informazioni. Un altro esempio. Nelle zone a basso reddito delle Filippine, i bambini ricevono materiale didattico con il riciclaggio. Se portano a scuola oggetti da riciclare, ricevono in compenso materiale didattico gratuito, che è una buona soluzione. Un altro. Una soluzione che riguarda i corsi di riqualificazione dei lavoratori disoccupati che stanno testando negli Stati Uniti. I responsabili dei corsi si sono resi conto che il motivo per cui non molte persone li seguono è perché devono badare ai figli e non hanno tempo. Ora hanno creato classi in parallelo per i bambini, così da permettere di far venire chi altrimenti non riuscirebbe. Il Canada e la Germania sono paesi da imitare quando si tratta di rifugiati. In Singapore, dove hanno il problema di esaurimento dei posti letto negli ospedali, problema comune anche ad altri paesi, utilizzano l'intelligenza artificiale per assegnare in maniera più efficiente i posti letto. Questo libera molto spazio e risorse economiche di conseguenza. Un'altra che mi è piaciuta. In India, per rendere le città più a misura di bambini, nello stato di Guvaneshiwa, hanno introdotto dei comitati di ragazzi per la revisione dei nuovi edifici. Quindi i giovani sono coinvolti nella discussione finale del procedimento. Di solito, invece, non hanno voce. Nothing from Italy. We came across a Avevamo scoperto un programma di integrazione dei rifugiati interessante nel sud Italia che consisteva nell'organizzazione dei comuni. Nei paesi in cui vi è un problema di sottopopolamento perché i giovani sono partiti, usano i rifugiati per rivitalizzare l'economia. E l'altro esempio dell'Italia riguarda invece l'energia solare. Nell'anno 2013 l'Italia era la nazione a produrre in percentuale più energia solare del mondo, in testa alle classifiche mondiali in quel settore. E mi ha colpito lo spirito di Robin Scott, perché nelle carceri sudafricane, che non è certo un ambientino facile, è riuscita a fare, a far fare cose eccezionali, anche di solidarietà, da ergastolani, da persone condannate che sembravano irremovibili di fronte a certi richiami. E invece è accaduto anche lì. Ma torneremo a parlare e di lei, della sua idea, tra poco. Ora il traffico. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Di nuovo insieme, sempre Irene Zerbini, benvenuti a Spunti di Vista. Abbiamo lasciato Robin Scott, questa donna visionaria che continuerà col far sì che il pubblico della pubblica amministrazione di tanti paesi possa scambiarsi, possa dialogare, possa fare in modo che le idee e i sistemi migliori circolino. E ricorda un po' la sua esperienza, quella che molti di voi avranno ammirato in un documentario di Michael Moore, si intitola Where to Invade Next, cioè dov'è che noi americani dobbiamo andare a invadere, a esportare la democrazia, dice lui, no? Quasi ironicamente. Un documentario del 2015 in cui lui se ne va in Europa e non solo, e scopre cose miracolose in giro per il mondo, proprio perché questa voglia di guardare fuori è l'unico modo poi per proporre ricette che funzionino anche all'interno del proprio paese. Insomma, rimane molto abbagliato da tante cose Michael Moore, e rimane molto abbagliato anche dalla Tunisia, dove una ragazza gli dice che, ascoltiamola. Americans are lucky. Gli americani sono fortunati ad appartenere al paese più potente del mondo, ma l'essere i più forti ha impedito loro di essere curiosi. Ho letto un articolo interessante che raccontava quanto tempo gli americani spendano a guardare il Kardashian Show. Perché impiegate il vostro tempo così? Avete inventato l'arma più potente del mondo, Internet. Dunque, usatelo nel modo giusto. Controllate, leggete, guardate e poi venite a trovarci, perché ne valiamo la pena. È un piccolo paese, si chiama Tunisia, ed è un piccolo paese del Nord Africa. Penso davvero che noi, come gli altri paesi, meritiamo la vostra attenzione, perché se mantenete questo modo di pensare, per il quale voi siete i migliori e sapete tutto, non funzionerà. Far luce sui diversi rapporti, le conoscenze reciproche che potrebbero esserci, e far luce su un altro tema molto importante, il rapporto tra violenza e terrorismo. Questo ci ha ispirato questo appello di questa ragazza raccolta nel documentario di Michael Moore. Abbiamo scoperto che in Tunisia esiste il primo corso online per capire il processo di radicalizzazione dei giovani, ed è un corso serissimo creato dall'Università Virtuale di Tunisi. È cominciato in giugno con 400 iscritti, è aperto a tutti, è pensato però in particolare per gli imam, per i formatori, per gli educatori, per chi ha a che fare sempre coi giovani. Ha un approccio multidisciplinare, e Samia Salifa, che è la fondatrice, è una professoressa di questa Università di Tunisi, oggi nostra ospite. Buongiorno Samia. Buongiorno Irena, grazie a lei. È veramente incredibile come questa idea venga da una delle terre che forse più ha sofferto per il terrorismo. Forse è proprio questo che vi ha spinto a indagare oltre quelli che sono i luoghi comuni sul terrorismo? Sì, l'idea del MOOC nasceva da un lavoro di intellettuali tunisini e accademici. Abbiamo lavorato 2 anni per studiare e preparare un programma su 7 settimane, e abbiamo cercato di capire digitalizzare le ricerche, le date sul terrorismo e radicalizzazione in nome dell'Islam. Prima vi siete mossi sul web, cioè avete cercato quella che era la propaganda dello Stato Islamico per poterla studiare, per poterla capire, per capire meglio il processo di radicalizzazione dei giovani? Abbiamo invitato quasi 24 persone, ricercatori, ma testimoni anche di gente che sono state in Siria, in Daesh. E questi 24 gente danno il loro punto di vista e i risultati delle loro ricerche. In prima settimana trattiamo il terrorismo nel tempo e nello spazio. Nella seconda settimana il terrorismo nel nome dell'Islam, la nascita di questa tendenza. In settimana 3 le difficoltà e la vulnerabilità che favorizzano il terrorismo. E in settimana 4 le fabbriche del terrorismo. Quali sono queste fabbriche? In settimana 5 l'universo del terrorista, perché il giovane è isolato dalla società e c'è un universo che è creato intorno a questo radicalizzato. Nel settimana 6 trattiamo dal cittadino al terrorista, il processo della radicalizzazione, come si fa la radicalizzazione, se ci sono quali indicatori che possano aiutare la gente a vedere venire una radicalizzazione violente. È impossibile sintetizzarlo in poche parole, ma dovendo concentrarci sulla settima settimana, cioè sulle azioni per arginare la radicalizzazione, quali sono le vostre conclusioni? Dobbiamo riformare l'educazione e dobbiamo riformare la religione musulmana anche. Dobbiamo vedere quello che è stato storicamente vero e quello che è manipolazione e quali sono le contesti che hanno stato accompagnato il testo. A parlarne e a analizzare cause e conseguenze del fenomeno che avviene sono tutte persone islamiche, musulmane, come lei, sì, Samia. Non tutti, ma maggioritariamente. È un nucleo, un corso che è stato concepito dai tunisini, siamo musulmani, e che parte di una realtà. Abbiamo bisogno di questa riflessione. Abbiamo la legittimità di parlare dei dogmi di questa violenza estrema che è il terrorismo e il nome dell'Islam. Mediterraneo sia quella nave che va da sola, tutta musica e tutta vela su quell'onda dove si vola. E quindi abbiamo sentito una voce, un esperimento che si ripeterà se alla fine del bilancio, perché è la prima volta che è stato realizzato, il bilancio sarà positivo. È molto importante capire quelle che sono le cause della violenza estrema in nome dell'Islam, cioè conoscere cos'è che porta al processo di radicalizzazione dei giovani, perché una volta effettuata in qualche modo la diagnosi è anche più facile agire. La bacchetta magica, le ricette semplicissime che non funzionano, altrimenti le avremmo già applicate, ed è molto importante riflettere con chi sa, con chi ha esperienza diretta. E allora abbiamo scomodato Rosario Aitala. Intanto benvenuto, buongiorno. Buongiorno, grazie. Rosario Aitala è stato consulente per il Ministero degli Esteri e nel Ministero degli Esteri ha diretto dei programmi internazionali per la Commissione Europea, per le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa. E io le chiedo scusa, non posso citare tutto il suo curriculum perché esaurirei il tempo della trasmissione. Comunque lei ci è stato, è andato in Europa dell'Est, in Asia, in America Latina, in Medio Oriente. Ora è professore onorario dell'Università di Buenos Aires e vorrei chiederle come prima cosa, visto che conosce queste realtà e ha parlato a lungo, ha scritto, un commentatore di Limes, dopo aver sentito questa intervista, questa professoressa tunisina organizzatrice del corso, un'iniziativa di questo tipo può essere una risposta efficace? Guarda, è un'iniziativa intelligente e promettente, io credo, perché parte da un punto molto corretto, che non riguarda però solo chi sta dall'altra parte del Mediterraneo, riguarda anche noi. L'obiettivo è comprendere come dei giovani normali, delle persone normali, possano all'improvviso decidere, come dire, di sostituirsi a Dio o al fato, se lei vuole, al destino, e determinare la vita e la morte di ragazzi come loro, e passare da un giorno all'altro da frequentatori di un locale notturno invece a omicidi che vogliono solo distruggere la vita degli altri. Sì, perché abbiamo visto, lei ha fatto riferimento ai frequentatori del locale notturno, abbiamo visto questo tipo di stile di vita anche molto mondano, fino a quello che poi gli organi di stampa chiamano il momento della radicalizzazione, quasi fosse, no, una cosa che cade in una notte. Non è così. Lei che è stato anche, tra l'altro, in Tunisia molte volte, è stato in Iraq, in Afghanistan, ma in che modo questa marginalizzazione di cui molti parlano, soprattutto quando si analizzano i foreign fighters, cioè quelli nati in Europa, in che modo questo elemento può essere collegato poi a una radicalizzazione del giovane? Qual è la causa? Qual è l'effetto? Come convivono? Forse non c'è. Come convivono questi due elementi? Guardi, anzitutto va detto che non tutti i terroristi sono soggetti marginali. Alcuni sono degli ideologi, dei politici, altri sono dei miliziani, degli ex agenti di servizi segreti disciolti, dei mercenari. I ragazzi, soprattutto i più giovani, sono spesso individui marginali, cioè persone che sono e si sentono soprattutto isolate, abbandonate, non hanno lavoro, non hanno contatti sociali, sono lontane dal cuore della società. Queste persone sono più vulnerabili non solo al radicalismo ideologico, ma anche all'illecito, e questo riguarda assolutamente anche le nostre società. Ma c'è anche chi dice che l'unica soluzione a questo punto per proteggere il territorio, faccio l'avvocato del diavolo, è chiudere le frontiere. Ma guardi, da una parte questo non serve a niente, e purtroppo l'ha dimostrata l'esperienza degli ultimi anni in Europa. I terroristi in Europa erano quasi tutti cittadini europei, quindi la chiusura delle frontiere non avrebbe risolto niente. Dall'altra parte questo non si può fare, perché dalle frontiere non passano soltanto terroristi o criminali, passano principalmente flussi umani positivi, di professori universitari, di lavoratori, di artisti. Passano flussi economici, flussi culturali, e chiudere le frontiere quindi non è possibile. E in generale, guardi, io credo che i nuovi nazionalisti, che non sono solo in Europa, scopriranno presto che un popolo che si chiuda ermeticamente, che non si confronti con la diversità, con delle idee diverse, con un modo di vivere diverso, è destinato inevitabilmente a inaridirsi e alla fine a perire, a scomparire. Ci torniamo tra pochissimo. Linea alla regia. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Rieccoci insieme, lo ricordo, con noi Rosario Aitala, che tra le mille esperienze è stato consulente per il Ministero degli Esteri, ha diretto programmi internazionali, è un opinionista di Limes, quindi un attento osservatore delle questioni geopolitiche, con il quale ci stiamo soffermando sulle cause e naturalmente le possibili soluzioni della radicalizzazione. E ci diceva, la marginalizzazione può essere collegata come causa a questo tipo di effetti, e non solo nella violenza in nome dell'Islam. Allora le chiedo, Rosario Aitala, per continuare la nostra molteplicità, questo era l'aspetto su cui ci stavamo soffermando, e sulla ricchezza. Lei stava facendo un parallelo tra i romani e gli americani, se ho capito bene, mi corregga se sbaglio. Sì, stavo dicendo che tanto i romani, di cui parlava lei prima, ma anche gli americani, un'altra grande nazione, hanno seguito un'idea molto intelligente, che era quella di assorbire delle persone diverse e di farle diventare cittadini. Ed è questo il motivo per cui noi dobbiamo oggi, essendo in una condizione privilegiata rispetto ad altri paesi come la Francia e il Belgio, perché non abbiamo delle seconde o terze generazioni di stranieri che covano astio nei nostri confronti, perché sono in genere ben integrati, dobbiamo oggi pensare a rendere queste persone cittadini per diventare più forti noi. Va interpretato, ribaltato il punto di vista, chiaramente, come ricchezza e proiettata sul futuro è l'unico modo per concepire, anche dal punto di vista economico, come la diversità possa offrire tantissimi ponti, tantissime occasioni di scambio al paese. Tornando alla questione dei giovani, lei ci diceva moltissimi dei terroristi che hanno colpito in Europa erano cittadini europei. E in che modo dunque dei cittadini europei che hanno frequentato le scuole, hanno respirato lo stesso humus culturale dei coetanei, maturano poi quest'astio a cui lei si riferiva? Qual è la molla? Generalizzare è un po' difficile perché ogni storia è diversa, ci sono degli elementi comuni, alcuni di questi ragazzi vivono quella che io potrei definire una torsione identitaria, da una parte c'è la realtà che a loro tocca vivere, è una realtà spesso di marginalizzazione, di disoccupazione, il sentirsi lontani, distanti dal cuore del paese. Dall'altra parte c'è invece un'identità che si immagina, perché loro non la conoscono, che è l'identità delle proprie origini. Non la conoscono perché non conoscono quella lingua, non conoscono nemmeno la religione musulmana, spesso incolpano i propri genitori di averli tenuti nell'ignoranza di questo, e quindi idealizzano le proprie origini e in qualche modo alcuni di questi fanno la scelta di ricorrere alla violenza, spesso anche nel ricorrere di presupposti di debolezza psicologica o talvolta anche psichiatrica. Questa è una commistione di elementi che spesso si è trovata nel profilo di chi ha colpito anche in Europa. Ma allora, non è una questione religiosa? No, io credo di no. La religione è il linguaggio che viene utilizzato da alcune forme di terrorismo, ma l'obiettivo è il potere. Io sono fermamente convinto che anche l'espressione terrorismo islamico sia profondamente sbagliata, sia una sciocchezza. Non esiste il terrorismo islamico, esiste un terrorismo che in realtà ha obiettivi geopolitici, territoriali, economici, serve a controllare porzioni di potere, serve anche a dare rappresentanza politica, fra virgolette, a delle classi sociali oppure dei gruppi etnici o a delle confessioni religiose che questa rappresentanza non hanno avuto, ad esempio in Siria oppure in Iraq. L'obiettivo finale è il potere, ma la religione viene utilizzata anche come strumento per veicolare una forma di fidelizzazione. E dunque, visto che l'Islam è un universo immenso che comprende paesi e culture diverse, iniziative come questa che abbiamo presentato all'inizio della trasmissione, che nascono in un ambiente islamico rivolto non esclusivamente ma soprattutto a persone di religione musulmana, hanno una legittimità anche maggiore. Beh, senz'altro, per questo le dicevo che è un'iniziativa intelligente. Naturalmente il tema è molto complesso, non possiamo esaurirlo in poche battute, e non è questo uno strumento che possa risolvere rapidamente i problemi. Tutti i cambiamenti sociali, culturali e politici hanno bisogno di tempo, quindi bisogna entrare nell'ottica del medio e del lungo periodo, bisogna avere pazienza, bisogna cominciare oggi per accogliere i frutti nei prossimi anni. Poi ci sono degli interventi che naturalmente devono essere fatti immediatamente. Questo tipo di intervento, cioè la capacità di guardare dentro noi stessi, questo vale sia per chi sta dall'altra parte del Mediterraneo, sia per noi, è però essenziale per il futuro, per dare ai nostri figli una prospettiva di una società più plurale, più giusta, più sicura, più serena. È un po' il discorso su come sarà l'Italia tra 20 anni e come rischia di essere, si può costruire da ora. Un'ultima domanda. Dottora Itala, riguarda lo sguardo con cui lei ha avuto a che fare varie volte, non delle correnti dell'Islam come, diciamo, ente astratto, ma dei giovani. Quando lei cammina per le strade di Tunisi, così come per le strade di Kabul tante volte, come vedono questo modello occidentale, secondo lei, che in qualche modo ha anche questa pretesa di superiorità spesso? Guardi, anche qui non voglio generalizzare, io ho incontrato dei giovani meravigliosi, intelligenti, colti, curiosi, persino affettuosi, devo dirle, e in generale devo dire che l'idea che noi trasmettiamo, quella cioè di poter propagandare e trasferire altrove un nostro modello politico e culturale, purtroppo contrasta con una realtà evidente, che è quella che soffre la nostra società. È una società molto diseguale, una società ingiusta, una società spesso corrotta, e questo contrasta con quella superiorità di cui parlava lei. E dunque, l'avete sentito, gli interessi veri sono quelli geopolitici, economici, territoriali, sociali. L'obiettivo è quello, la religione è solo un linguaggio, come ci ha spiegato Rosario Itala, che ringraziamo tantissimo, e continuiamo questo nostro viaggio alla ricerca di buone pratiche, idee da scambiarsi, una contaminazione continua che ci porta a Philip Webster. È un giornalista, è l'ex presidente di Stampa Estera di Milano, Head of Radio Corps English Service, è un giornalista franco-britannico, ma porta dentro di sé tante culture e tanti influssi. Sono nato in Sudafrica, sono cresciuto in Africa orientale soprattutto, poi dopo mi sono spostato la mia famiglia si è spostato in Australia, poi siamo arrivati in Europa quando avevo 11-12 anni, e lì ho passato i primi anni in Francia fino all'università, poi sono andato in Gran Bretagna, poi tornato in Francia, poi in Irlanda e poi finalmente in Italia. E quando sei nato, il tuo passaporto, che nazionalità avevi? Mamma francese, papà inglese, dunque queste erano le mie nazionalità e sono rimaste tale quale. E da ora vivi da 20 anni in Italia? Esatto, sì, non ho mai chiesto la cittadinanza. Come mai? Pigrizia più che altro. Visto che comunque in questo momento non ti preclude per il tipo di attività che fai, il non possedere il passaporto italiano è stato... Ma essendo comunitario, almeno fino alla Brexit, non ho bisogno di un passaporto italiano. Poi comunque la cosa un po' buffa in tutto questo, giri, ma i miei due nonni materni sono di Bergamo, dunque tutto sommato sono metà italiano. E quindi c'era anche questo influsso nella tua storia. Sicuramente chi ha la possibilità di confrontare più sistemi, più culture, tiene anche viva una certa curiosità, perché spesso poi i sensi si spengono di fronte a scenari sempre uguali, a situazioni sempre uguali. Invece, viaggiando, avendo la possibilità di vedere le cose come sono e di ricordarsi come erano state osservate da me nella nazione precedente o nel sistema precedente, vengono delle idee, e da questo nasce anche questa nostra conversazione. Dovendo tu parlare, ora che la conosci veramente bene, dell'Italia e di cosa viene apprezzato all'estero, soprattutto nel tuo settore dell'Italia. Partiamo da note positive. Cos'è che ci invidiano? Ma tante cose. C'è uno scrittore francese che aveva detto, parlando degli italiani, ha detto: sono dei francesi ma di buon umore. E dunque questa è forse la prima cosa, quello che piace, sicuramente uno stile di vita, una grande cultura, gente accogliente, e forse quello che riassume di più l'Italia è questa grande cultura, che è molto impregnato in noi, perché comunque da 300 anni a questa parte, con il Grand Tour, questa idea che l'Italia tutto sommato è la culla della nostra cultura con la Grecia è molto forte. Dunque c'è un amore molto forte, soprattutto da parte dei francesi, dei britannici, ma anche dei tedeschi, verso l'Italia e quello, il suo contributo nella cultura europea. E hanno perdonato anche Materazzi. Sì, ma tutto sommato non è la colpa sua. Ti sei italianizzato, oppure sei molto diplomatico. Abbiamo Abbiamo visto e saputo che nelle buste paga francesi c'è la possibilità di vedere esattamente la percentuale di imposte che verrà destinata a questo o a quel servizio della pubblica amministrazione. Sto parlando di scuola, sanità, vigili del fuoco e tutto quello che possiamo utilizzare nella vita collettiva. Una busta paga trasparente, insomma, probabilmente risale a tanti anni fa una tradizione di questo tipo. Il problema delle tasse è ovviamente uguale in tutti i paesi, nessuno ha voglia di pagarli. Dunque, quello che è molto importante è far capire alla gente che quando si pagano le tasse servono a qualcosa. Io mi ricordo tanti anni fa che penso che c'era ancora Ciampi come presidente, come ministro delle finanze all'epoca, c'era stata una bellissima pubblicità in Italia dove si vedeva dove andavano le tasse. E mi ricordo che mia moglie mi aveva detto: che bella pubblicità, mi dà voglia di pagare le tasse. E tua moglie è italiana, sottolineiamo. E la mia moglie è italiana. Dunque, penso che c'è bisogno di sensibilizzare le persone per capire che una tassa non è qualcosa, diciamo, soldi presi da te e poi dati a qualcun altro senza motivo, ma permette di mettere insieme delle risorse e avere dei servizi. E questi servizi ti permettono di vivere meglio. Let me tell you. E c'è proprio un ambito, la psicologia fiscale, che analizza la percezione della tassazione che cambia a seconda del livello di conoscenza della destinazione finale dei suoi soldi. Cioè il contribuente, dovendo pagare un'aliquota, cito a caso, del 38%, se conosce l'esito finale avrà una percezione maggiore o minore di leggerezza o di frustrazione. E torneremo a parlare con Webster e con un altro ospite proprio di sistemi fiscali e comparati, con un esempio sul campo che ci arriva da oltre confine, dietro l'angolo, dalla Svizzera. Ora il traffico. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Continuiamo in auto, se siete in auto, oltre confine, non è lontano ma appare a volte lontanissimo questo viaggio insieme a Spunti di Vista. Ancora buongiorno da Irene Zerbini. Stiamo andando in Svizzera. Perché? Perché è un paese molto virtuoso dal punto di vista del rapporto col contribuente. Ma noi ne parliamo proprio con il responsabile delle contribuzioni, il vice direttore della divisione contribuzioni del Canton Ticino, per capirci l'equivalente dell'Agenzia delle Entrate. È con noi, si chiama Giordano Macchi, lo ringraziamo per il suo tempo e gli chiediamo subito come funziona la compilazione della dichiarazione in Svizzera. Ma fortunatamente noi abbiamo una buona tradizione che dura da tanti anni di dialogo con i contribuenti. Come diceva il giornalista, in effetti a nessuno piace pagare le tasse, se però al momento che devo allestire la dichiarazione o ho problemi con i pagamenti e posso parlare con qualcuno, questo probabilmente mi fa sentire un po' meglio. Quanti addetti avete, per esempio, voi in Ticino per poter dialogare con una popolazione totale di circa 300.000 abitanti? Ma noi abbiamo 200 collaboratori che sono suddivisi in 6 uffici regionali, quindi ad esempio ce n'è uno a Lugano, uno in Rio, uno a Locarno e così via, e tutti questi sono dotati di sportello, oltre che di centralino telefonico e di email box, e quindi i modi di contattare l'autorità per porre domande e risolvere problemi direi che non mancano. Come funziona? È vero che chiunque può compilare da sé la dichiarazione dei redditi perché il sistema anche delle detrazioni è estremamente semplice? Io direi che la grossissima parte dei miei concittadini riesce in poco tempo o col modulo elettronico o col modulo cartaceo a preparare la dichiarazione, perché di solito sono poche voci, certificato di salario, un conto bancario, pochissime altre cose e la dichiarazione è finita. Però ci sono tantissime possibilità di detrazione. Sì, il nostro sistema praticamente ricavi, bisogna marcarli tutti, ma poi dall'altra parte ci sono deduzioni anche importanti. Vorrei ricordare ad esempio, ogni figlio sono circa 10.000 franchi, quindi se ho due figli deduco dai miei redditi 20.000 franchi. Poi posso dedurre le spese di manutenzione dell'immobile. In Svizzera nelle buste paga non ci sono ritenute alla fonte, cioè spetta al dipendente poi dichiarare a fine anno. Questo è un indice di grande fiducia verso il contribuente. Questo è sempre stato così, quindi il nostro sistema... La mia busta paga non ha nessuna deduzione fiscale. Io quando al momento preparo la dichiarazione e poi quando il fisco ha deciso il dovuto finale mi manda cedolini di conguaglio. Però questo non lo concedete agli italiani, per esempio, né ai frontalieri né agli stranieri. Perché? Questo deve essere un motivo di pragmatismo che si è creato nel momento che persone straniere di tutte le nazionalità sono venute a lavorare in Svizzera e poi queste tornano al loro paese. Direi che è meglio per tutti, sia per chi viene a lavorare e non ha tempo e voglia di ricevere una dichiarazione un anno dopo che magari è tornato al suo paese, sia anche per la sicurezza di incasso, liquidare il tutto con un'imposta alla fonte, come la chiamiamo noi. Come funziona con gli accertamenti in Svizzera, Macchi? Ma c'è la fiducia, però c'è anche il controllo. Quindi il nostro sistema attualmente prevede che ogni incasso delle persone fisiche sia controllato da un operatore, quindi il rate di controllo è il 100%. Quindi l'accertamento è totale, quello è il principio, non è a campione. Che sia compilato con un modulo elettronico o che sia fatta ancora a mano con la penna su un modulo di carta, ci sarà un cosiddetto tastatore che prende l'incarto e controlla tutte le cifre fino in fondo al modulo. Grazie a Giordano Macchi che ci ha raccontato, come avete sentito, alcuni punti a cui ci si potrebbe ispirare per una riforma del rapporto tra contribuente e fisco. E l'approccio è stato molto pragmatico, il denaro, le tasse, ma in realtà ci sono molti temi. Per esempio tu, Philip Webster, che hai vissuto e lavorato un po' in tutto il mondo, se potessi importare qui, se tu avessi la bacchetta magica, una riforma che però hai visto, hai osservato altrove, è una domanda che rivolgo anche agli ascoltatori, potete segnalarcela sulla pagina Facebook di Spunti di Vista, una riforma la più urgente da fare in Italia, cosa faresti? Allora, la mia prima riforma non sarebbe fiscale, sarebbe giudiziario, cioè penso che quello che deve essere riformato è la giustizia civile in questo paese, che ovviamente ha tempi molto lunghi e molto incerta, blocca assolutamente tutto, da investimenti, e penalizza molto i rapporti fra la gente. Suggerimenti per migliorare il sistema, per accelerare e garantire tempi certi e molto più rapidi? Sono 20 anni che sono qua, 20 anni che se ne parla, fino adesso nessuno ha trovato veramente la soluzione. Penso che, visto come è creato il sistema, deve essere una cosa bipartisan, deve essere una cosa ovviamente dove la gente parla e c'è la volontà di arrivare a una soluzione. È un processo abbastanza lungo, i francesi l'hanno fatto sotto Mitterrand, avevano comunque riformato il codice penale. Si può fare, ma ci vuole la volontà di tutti. Il problema è capire se c'è veramente la volontà di riformare il sistema giudiziario, perché la sua lentezza ovviamente comporterà dei vantaggi per chi forse è in una posizione di forza e non vuole avere un sistema giudiziario che funzioni troppo bene. Dunque, ma questa sarebbe la mia riforma. La prima assolutamente urgente, che avrebbe ricadute un po' in tutti i settori e di conseguenza anche nella mentalità, perché poi una soluzione dei contenziosi e dei conflitti e quindi anche per esempio dei tempi di pagamento, che è una tematica connessa alla lentezza della giustizia civile, porterebbe un clima di fiducia che un pochino a macchia d'olio creerebbe dei benefici in diversi settori della società. Mi piace questa tua prima riforma. Per andare in alcune tematiche relative invece alla mentalità dell'italiano. La mentalità dell'italiano, come ho detto, è un popolo molto generoso. Molto facile, diciamo, avere dei rapporti con gli italiani, soprattutto i rapporti informali sono molto importanti. Io non ho nessuna difficoltà a lavorare con gli italiani, addirittura... Visto che abbiamo parlato della stampa estera, abbiamo colleghi italiani, trovo che sia spesso molto più facile lavorare con loro che con diciamo gli stranieri. Dunque, da questo punto di vista, non molto piacevole. Il problema è quando si pensa a sistemi complessi, lì diventa molto difficile, a mio parere, mettersi d'accordo. Difficile programmare, difficile rispettare i tempi. Dunque, forse lì un po' più di disciplina e quando si lavora in, diciamo, collettivamente, e forse capire, essere più empatico e cercare di capire perché una persona dice qualcosa e che forse, cioè, abbiamo tutti ragioni, abbiamo tutti torti, dunque dobbiamo trovare una sintesi, dunque forse questo è una cosa forse da cambiare. Gli inglesi, per esempio, sono molto bravi per questo, riescono a mettersi d'accordo, a trovare delle soluzioni. Anche i francesi sono molto buoni, ovviamente, a programmare. E invece tu dici che noi ci pelaghiamo un po' in quello che ci differenzia rispetto al nostro compagno di scrivania, di partito, di squadra. Sì, c'è molto una mentalità, diciamo, di un po' di tribù. Dunque ci mettiamo insieme, forse poi c'è lo scontro piuttosto che cercare una sintesi. Anche forse un troppo individualismo, sono cose che comunque si sa, non vuol dire che ovviamente il paese non funziona o che non si riesce, ci sono le comunità, a livello di certe comunità l'Italia funziona molto bene, basta vedere le più piccole città italiane, sono molto belle, molto ben organizzate, a pensare dei sistemi come i distretti industriali comunque che funzionano, dunque vuol dire non è che non c'è un senso della collettività, questo senso della collettività si esprime bene a certi livelli e meno bene altri. È un commento il tuo, carico di amore, di ammirazione quasi, e mi piace sottolineare questo aspetto perché spesso i corrispondenti stranieri sono chiamati inevitabilmente a fare del giornalismo e anche critico, ma poi a livello personale esprimono, quasi dovessero rassicurarci, tanta positività, come a rincuorare il bambino che parla, che ha scarsa autostima, che parla sempre male di sé, perché il primo detrattore dell'Italia è spesso l'italiano, questo tu l'hai osservato. Sì, c'è molto autoflagellazione, dunque, ma anche una cosa che c'è in altri paesi, anche i britannici sono così, ma diciamo quello che lo straniero non capisce e dice, non capisce come mai possa funzionare questo sistema, visto che è un paese con forti contraddizioni, non vuol dire che altri paesi non ce le hanno, ma qua sono molto forti, e nonostante tutto è un paese ovviamente ricchissimo, un paese che è fortemente industriale, un paese che riesce a produrre molto, che è molto innovativo, e diciamo riesce a farlo senza seguire i canoni e le logiche di altri paesi. Dunque uno che viene dall'Europa del Nord con un schema mentale diverso forse non lo capisce subito, poi una volta che è qua inizia a capire le logiche e ovviamente poi diventa difficile tornare nel suo paese. E allora rimanete qui. Anche perché per ogni persona che lascia l'Italia, calcolando un reddito minimo annuo, più o meno si perdono 16.000 euro. E questo è un discorso a parte da fare sulla nostra debolezza demografica e poi sul fatto che quando se ne vanno i ragazzi, ma non solo per l'esperienza all'estero, il fatto che non tornino, perché poi solo uno su quattro rientra, coincide e spiega, in qualche modo illustra la scarsa attrattività di questo paese sotto molti aspetti. Per il resto, come avete sentito, sono tantissimi a esserne innamorati. Noi avevamo aperto questa trasmissione con una domanda ed era sul l'indice di progresso sociale, così è stato definito, sostituisce un po' il PIL. Ci eravamo chiesti qual è il paese nel mondo che sta facendo meglio, sta facendo passi da gigante ogni anno rispetto alla posizione iniziale, sta progredendo sempre di più. E ci avete indicato la Svezia, ci avete indicato un po' i soliti noti, la Finlandia, il Canada. Ebbene no, in questo caso è il Costa Rica. Cioè il paese che in base al denaro pubblico investito in termini di istruzione, sanità, possibilità di espressione anche dal punto di vista dell'identità sessuale, ottiene di più. Cioè una proporzione tra quanto si investe e i risultati che si vedono. Il Costa Rica. E ci salutiamo. Giulia Lauricella, che è la producer del nostro programma, a lei il mio più grande grazie. E con lei il regista Andrea Roccabella, da Irene Zerbini. Vi ricordo l'appuntamento ogni sabato e domenica alle 10 del mattino del sabato, la domenica mattina alle 8. E se volete contattarci, la mail è spuntidivista@radio24.it. Abbiate una radiosa giornata. Alla prossima.